Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. La prima eclettica del 2007, in effetti una settimana dopo, una settimana di ritardo. La pausa sarebbe dovuta durare una sola settimana, quella fra il Natale e il Capodanno, ma poi un virus malandrino si è messo di mezzo e quindi le settimane di pausa sono state due. Niente male, comunque eccoci qua belli riposati per un nuovo anno di Eclettica. Siamo a metà di stagione, però siamo anche a fine, come abbiamo appena detto, e quindi ad inizio di un nuovo anno di calendario. E dato il 2006 che è terminato, vediamo di dedicare queste prime due parti di Eclettica della settimana alle migliori 10 canzoni del 2006 secondo gli ascoltatori di Eclettica, e si comincia proprio nello spirito di Eclettica, dalla numero 10 con una canzone lunga più di 13 minuti. Thank you. È il nuovo anno di Eclettica e si guarda al vecchio anno, le 10 migliori canzoni del vecchio anno le avete scelte voi, scrivendo a giulio@radiorockfm.com o pubblicandole su myspace.com/eclettica in varie forme testuali o anche grafiche. Chiaramente avendo dedicato quasi metà della prima parte ad una sola canzone, se così vogliamo definirla, è evidente che non ci sarà una divisione equa 5-5, ma 4-6, quindi scopriremo dalla 10 alla 7 le canzoni che avete scelto quest'oggi e poi domani scopriremo le altre 6. Sono ben contento, dopo esserci ascoltati al posto numero 10 di questa nostra classifica, i giapponesi Mono assieme all'altrettanto giapponese compositore elettronico World's Hand Girlfriend con il brano semplicemente intitolato Part 5 dall'album Palmless Prayer Mass Murder Refrain uscito per la Temporary Residence, sono ben contento di lasciare spazio ad uno dei due nomi italiani che sono presenti all'interno di questa classifica. Un disco recente, è uscito il 13 di novembre del 2006 per la Homesleep Music, sto parlando di I'm the Creature dei My Scars, dal quale ci ascoltiamo il brano che tanto ha caratterizzato Eclettica. Vi ricordate il titolo? Ve lo ricordo io: Introducing the Liquid Pets. Come già vi ho detto, con la prima delle due tracce italiane abbiamo coperto quella che è la posizione numero 9, My Scars Introducing the Liquid Pets. Sono le 10 migliori canzoni del 2006 scelte dagli ascoltatori di Eclettica. Ovviamente la memoria vi ha portato a ricordare più facilmente le canzoni della stagione 2007, quindi quelle dall'estate in poi, rispetto a quelle vecchie. In effetti della stagione 2006, in questi 10 migliori pezzi ce ne sono solo due, che sono quelle che ci stiamo per ascoltare una in sequenza dietro l'altra. Fra l'altro è quella più vecchia, quella che ci stiamo per ascoltare in posizione numero 8. Lui si chiama Ben Cooper, ha 23 anni, proviene da Jacksonville Beach in Florida, ma incide per la berlinese More Music, forse l'ultimo bel disco per la More Music da un anno a questa parte, visto che appunto è stato pubblicato nel gennaio dell'anno scorso. Se il nome Ben Cooper non vi dice niente, vi ricordo che il suo nome d'arte è Electric President e in molti hanno ricordato la sua Good Morning Hypocrite. Questa è la posizione numero 8. Sank into the ground, and then prima di farvi scoprire la posizione numero 7 di questa classifica delle migliori canzoni del 2006 scelte dagli ascoltatori di Eclettica, voglio ricordarvi che quando la classifica verrà pubblicata sia su MySpace che è anche diffusa tramite la lista nera di Eclettica, saranno indicati anche i nomi, le decine di nomi di tutti gli altri artisti che sono stati votati e che non sono rientrati fra i primi 10, così per dare il quadro completo. Però quello che è stato votato non è l'artista, quello che è stato votato non è l'album, ma quelle che sono state votate sono le canzoni, perché Eclettica è una trasmissione di emozioni e le emozioni ce le regalano le singole canzoni. Prima abbiamo detto del disco più vecchio di questa classifica, quello del mese di gennaio 2006 di Electric President, appena ascoltato. Ci avviciniamo, ma non di molto, a cavallo fra febbraio e marzo, a seconda delle nazioni, è stato quello il periodo in cui è uscito per la Mute Records Drums Not Dead, il nuovo album dei Liars, a seguire They Were Wrong So We Drowned, terzo album dal quale ovviamente la canzone che voi avete scelto è The Other Side of Mount Heart Attack. Eclettica. Fine della prima parte.